andando bene. Questo sta andando bene. E a quanto ce l'hai il microfono? Minimo è a zero proprio. Ce l'ho. L'ho lasciato così. La batteria è nuova questa. È da Garriga. Sono con l'899. Vabbè, è bella chiara, prova a aumentare il volume. Adesso è la prima tacchetta. Ma adesso non sei uscito, Allora c'è qualche difetto nel coso. Perché adesso l'ho messo. Ecco, adesso l'ho messo a zero, torna. Prova di nuovo a metà metro. Guarda così. Prova a di nuovo però. 1, 2, 3, guarda a vedere. Guarda peggio. Prova ancora, aumentare ancora. Solo l'ho messo quasi alla prima tacchetta. Quasi alla prima tacchetta. Sì, nella prima tacchetta. Ma prima usciva più bene, adesso un po' strana. E c'è qualche cosa allora a questo microfono, che non esce proprio, più aumenti e meno si sente. Adesso va bene, adesso sei uscito perfetto. Fatti grillo, l'ha già baciato, l'ho messo a metà. Ma il primo è toccato gli aria oppure no? No, non ho toccato altro nulla, ha cambiato solo i fili e basta. Come il circuito, di questo ne avevo fatto già un altro. Me l'avevo segnato io. Adesso va bene, dai. Non è forte forte, però va bene tutto. Una bella chiara, pulita. Però se non funziona. Aspetta un attimino, guarda a vedere se funziona adesso. Ce lo metto nella seconda tacchetta. A metà della seconda tacchetta. E tu, così meno. Guarda a vedere adesso se si sente bene. No, è un po' colpa la radio. Sì. Questo più aumenti secondo l'apparato che. No, non va. È importante che sta uscendo, dai. Certo. Se io volessi mettere al coso alcuni terminazioni, bisogna cambiare di nuovo i fili. No, li ho provati in un'altra maniera, ma non fa, no, rimane sempre con la portata inserita. Allora l'ho rimesso come ci avevo nel disegno, perché ne ho fatto un altro io di questo, c'aveva lo stesso difetto. Quando muovevo il livello del coso, non si sentiva bene. Ecco cos'è. Però aspetta un attimino. Guarda a vedere se funziona adesso con questo qua. Sto usando l'inco. Adesso non sei uscito, Anche adesso? È attivo. Allora, con chi sono andato, papà? Neanche con il presidente, papà. Niente radio, segnale insieme alla radio zero. Sì, no, non funziona, secondo che cos'è non funziona? Secondo che radio è non funziona, infatti con il presidente devo cambiare un filo perché rimane con la portante inserita. Allora bisogna toccare il trimetro. Allora bisogna registrare il nuovo. Maria, ascolta Fabiano. Ci sono, Infatti lì ci sono due trimmer. Allora bisogna regolarli perfettamente. Forse sono stati toccati. Non lo so, io non ho toccato. Però forse sono stati toccati due trimmer. Io non lo so, ma il trimmer è toccato. No, io non ho toccato il trimmer, ma io dico, perché con Gala si sta facendo bene. poi non ho toccato più il microfono, capito? Però col Galaxy usciva bene, il trimmer io non ho toccato mai, ma siccome ho visto che ci sono due trimmer, forse per certi apparecchi bisogna regolare una trimmer. Ma se li tocco poi va a finire che non riesco a tenerlo bene, ecco cosa è. E allora non toccarle, ciao, lascialo così, cosa... se non ce ne sto a fare lascialo così, magari lo provo così, se va bene, guarda se non sono mai sveglia. E magari lo provi così, è normale, anzi mica io lo, ce lo si può dire, ammettacelo. Perché non ti sente nemmeno l'eco, capisci? Quello è. Guarda a vedere, a vedere. Adesso c'è l'eco. Quasi alla testa, è quasi alla testa. Ma questo è leggermente a vedere. Ma no, adesso è lo stesso. Prova a abbassare ancora appena. Sì, c'è l'eco, però non è perfetto. E allora bisogna toccarlo con il coso. Bisogna toccare appena il primo, bisogna toccare. Ma è fatto così, ecco. Detto, se riesci a toccare, a mettere a posto, va bene, se non lasciano così. Se non c'ho, di qua non c'ho piano, ecco cosa è, per sentire. Oh, tu cosa mi va a toccare o no? Non lo so, Gio Mario, se poi è peggio. è una garetta. Prova a toccarmi, insomma. Prova a toccarmi, cioè gli dà ragione. Aspetta a vedere, che proviamo a... registrato. Tu, vabbè. Giammari, com'è? Quanto c'è di bevuto? Ma si è andata lontano la voce. Sta uscendo bene, però sta lontano la voce, capisci? Oh, è lontano, così adesso l'ho avvicinata un pochettino. No. Guarda a vedere, uno, due, tre, però fa. Adesso è migliorato un altro po'. Ce l'ho avvicinato, ce l'ho. C'è però senso, va. Si è migliorato un pochettino, va. L'eco ha migliorato. È tutto da cosa, dal trimmer. Perché il microfono va bene. È solo al trimmer che bisogna regolare anche l'eco, capito? Perché è troppo in fretta l'eco, deve essere più piano. Guarda bene, non male, se va bene. Fai il passaggio più lungo. Uno, due, tre, prova. Se prova a diminuirlo appena appena. Adesso non diminuisco. Adesso mi sembra va bene, fatta se giù più lungo. Uno, due, tre, prova. Adesso ce l'ho di più su della racchetta. Prova a abbassare l'altro appena tu. Un cin cin. Guarda a vedere, 1, 2, 3, adesso si capisce perfettamente. Aspetta che regoliamo la normale. Ecco, io sono qua. Guarda a vedere, 1, 2, 3, no, adesso è normale. Infatti, adesso è normale, va bene il microfono. Allora lo lascio così, lo lascio. Ho regolato il trimmer, l'ho regolato. Tutti e due. Lascialo così, sto. Lascialo così, non meglio, vai. Ecco, adesso è normale. Ho messo normale, l'ho messo, l'ho chiuso. E ma chi è che tu ce l'hai? All'ultima tacchetta al minimo. Prova a mettere la pelle, ma chi è? Questo macchighi, aspetta, questo è al massimo, è macchighi, RFG veramente. Questo non ha altro. Ma va bene, tu, lascialo così, va benissimo. Aspetta un attimo, che lo provo quell'apparecchio che stavo provando prima. E fai, fai, lascia. Guarda se sta uscendo bene, Gio Maria, sta uscendo? Non stai uscendo, E allora non va bene con questo. Niente radio. No, non va bene con questo, con questa radio qua. Con l'inco non va bene. Sì, la radio c'è, però è bassa la radio, capito? Non è possibile. Non va bene con quello lì. Non andrà bene. Ecco cosa è. E vabbè, pazienza. Non fa nulla, può darsi pure che con il tuo, io invece con il precedente devo staccare un filo perché quello ha 5 fili, il precedente, e devo distanziare quei due che sono insieme. Ah, faccio. E anche lì, la metto il centro, anche quello che ha 5 figli, o no? Sì, è per quello che ha 5 figli, il presidente ne ha 5 e quindi devo separare quei due che sono attaccati. Ecco cos'è, per farlo funzionare con il presidente. Ah, ecco, a proposito, se c'hai tempo, andiamo a regare qualcosa, no, non lo tocco, lascio così, meglio da salvo così come ti è. Provatelo sull'apparecchio tuo. Facciamo un cielo, lascio così, ma la radio è bella forza adesso, bella pulita, vai. Forse è sempre l'899, no? Sull'899, magari su quello che devi mettere funziona ancora più bene. E poi lascia lo usiamo più di tutto. Il vivo guicciolo. No, un sodo se no, da poi si pacca. Andà benissimo. Ci ho messo la batteria di cosa? Conad. Ci ho messo. Se io avevo preso quelle Conad. E ci ho messo quella lì, che bella carica e tutto. Vabbè, quanto cosa tu? Ah, però ci vediamo di noi soli. Non ti preoccupava. Ma cosa, molto consuma come cosa di batteria. Non è che l'ha dosato molto tu. Non è che l'ha dosato molto, ma non penso io, mi sembra che consumi poco, No, sai, se si sia caricata così questa batteria, senza usarla. E vabbè, già non fa nulla. Già non fa nulla. Infatti, un altro momento ne bevo un'altra, nemmeno provo su questo microfono a vedere. D'accordo, fai come vuoi, provalo così, provalo là. Bisogna provare il tutto, ecco. Va bene, non va male, ma sveglia. Io di questi, per quello ce l'avevo segnato il disegno, perché ne avevo fatto già un altro, ne avevo fatto. Riusciva perfettamente, usciva. Solo che c'aveva problemi sul coso delle... come spostavi il coso del volume. Ecco cos'è. C'aveva problemi sul coso del volume dell'eco. Poi me ne ha tornato a riga e me l'aveva bucato e gliel'ho cambiato. E funzionava perfettamente. C'era qualcosa che non andava per quella allora. Questo qua adesso l'acciaro così, ma sto uscendo bene adesso, è bella chiara, pulita, tranquilla, capito? L'acciaro così. No, gliel'ho regolati, gliel'ho regolati proprio, perché erano tutti e due al massimo, uno gli ha da una base e uno gli ha dall'altra, tutti e due al massimo. Invece adesso va benissimo, adesso bella pulita e adesso sei tu. Adesso aspetta che ti provo l'eco a vedere, guarda a vedere l'eco com'è. È perfetta, l'eco è perfetta tu, va bene. Andare bene, allora andiamo a posto. Sono tutte e due neanche a metà. Va bene così tu, va bene, lascia tutto così, fuori la colla e fissali. Piccata! Anda, a pulire la colla, ui. Come ti dico, va bene, cazzo, vieni così, cosa vuoi pretendere? Adesso lo provo il mio, vediamo un po' come esce. E vediamo un po', va. È tutto a provare, se uno prova a fare le regolazioni, è normale, come quello dell'M600. E vediamo a regolare dare indietro invece il trimmer. E adesso bene. Infatti, no, adesso lo... stato regolato perfettamente, cioè, mi sta dicendo che sta uscendo bene ed è chiara, anda benissimo, anda. Ti ho detto, sono un testicolare, ti volevo ci fucchiare, guarda bene, bella chiara pulita, dai. Sono a 20 centimetri dal microfono, sono, mi era già appoggiato il braccio, mi era già appoggiato andando alla banca, e sono a 20 centimetri. Ecco, lascia la portante butta. Va bene, è a posto. Si sente nulla, no? Quindi già va benissimo. Perfetto, perfetto, va bene. Ia, andiamo bene così. Andiamo benissimo. Ia, chiudi tutto, tutti i bimbi già va bene. Dopo vediamo un po' il risultato con questo apparecchio, vedere un po'. Dovrebbe funzionare benissimo su quell'apparecchio, dovrebbe funzionare benissimo. Non è presidente, devo soltanto che devo staccare i due fili e appoggiarlo in un altro posto. Ecco cos'è. Ah, solo che l'attacco è a 4, quindi non fa. E speriamo che non voglia, che non bisogna staccare con l'attacco col mio, quel filo. Sì, ma è soltanto che l'attacco delle spinotte è a 4, quindi deve essere per forza attaccato. E allora va bene, allora dovrebbe andare bene. Allora lo proviamo, spero che c'è tempo, lo proviamo, insomma, vediamo il risultato. Sì, dopo che funziona benissimo. Chi dà che una scena, ecco cosa è. Anzi no, zinco video, cosa, quindi dovrebbe essere così, mi dà la portante fissa, mi dà. Ma l'M600 quanto ne ha fili? 5 o 4? 5 ne, no, 4 ne ha fili, o 5, boh, non me la metto più, mi pare che sono 5, sono 2, due sono, no, io l'ho eliminato, il capo è che ne ha 5, e 4 fili sono. E ahi, ecco, adesso l'M600 vicino ce l'hai? Sì, no, devo attaccare solo e basta. E allora prova la differenza che c'è da uno all'altro, prova a attaccare quello. Guarda a vedere. Quanto c'è di lungo? 1 e 3, prova. E qua c'è l'eco pronto, qua c'è parecchio l'eco. Qua c'è a 0. Ecco, bene va. Esatto, questo rimane più forte come radio, Più forte come radio, nella piena, capito? Questo è migliore di quell'altro. Ma da microfono all'altro cambiano, ecco cosa è. Da un microfono all'altro cambiano. Questo è più perfetto, Questo è più perfetto, ma anche quella, anche quello dovrebbe essere così, perché sono dei microfoni che sono perfetti, escono bene dappertutto. Infatti strano però che esca così, leggermente più bassa ma è chiara, capito? Metti questa bella piena e chiara. Ma se vuoi io lo torno a aprire e lo torno a metterlo ancora di toccare il tremel. E prova a avere un po', dai, però se riusciamo a farlo come questo. Guarda a vedere, Giovanni, se va più bene. Fai il passaggio. 1, 2, 3, prova, hola. Non è come quell'altro, Questo è meno incisivo, quello là è bello pieno, è tutta un'altra cosa, va. Metti c'era un pochettino di eco solo, è venuto, metti appena di eco, perché era troppo forte adesso, metti se tu metti appena di meno di eco e vedi un po' come. Guarda a vedere adesso se va benissimo, gli ho messo appena di eco, 1, 2, 3, prova. Lasciala così, Tom, è perfetto. Lasciato con appena d'eco, te l'ho lasciato. Lascia così, che va bene, Tom, è un bombo. Lasciala così. L'ho lasciato con appena d'eco. È quasi vicino. E così almeno è buono. È perfetto, Tom, perfetto. Lasciala così. Non tocca a lui, ma se non si vorrà guardare. Allora già andava a Puglia. Meglio così, Amaco funzionava e funziona. Perfetto, è perfetto, Antonio. Cazzo. Adesso va bene, è un bombo anche questo, dai. Cazzo. E cosa vuoi pretendere di più? Cazzo, anche troppo. Meglio così, Amaco si intende più bene, si intende. Già va benissimo. Infatti, ho appena tirato, ecco, va perfetto. È perfetta la radio. Senza girare, perché quando metti troppo ecco allora già fugli un pochettino, capito? Invece così va bene. Sì, ok, anda bene, già va benissimo. E beh, Billy, Billy, ma non vai in via ora, mi vedi? Oi, Billy, tutto a posto. Niente inutile. Yeah. Ascoltate, col portatile. Ehi, come c'è la tua stazione? Ah, siamo messo sulla messolina. Ricevito. Ma non sei il cattore. Oh, vabbè. Prova a parlare, to. Mi piace. No, è tre prova. Guarda a vedere. Anche questo è un buon classico, sì, con questa modulazione. È di Maru. Un classico, mi sembri. Mari, non l'hai compreso, no? Un classico. E da me, bello, a te piglio. E te si può anche dare. E se tu vuoi, se ti dico, mi chiedi da come me. Ah, beh, da un poco. Fammi farti serio un pochettino con tuo ragazzo. Ma lo so che tu sei sbalato, eh. Cazzo, c'è questa modulazione, sì, sì. Sì, sì. Guardi che ti sento lì. E ti sono pensato sì, sì. Ecco. Guarda, io non ho visto. Io mi sono messo il gruppo, non ho visto. Ma poi, quando lo so che a te era un microfono, sarai tu allora a rispondere con questo microfono. E ti dici chi sei stessi. Dai, ragazzi, vado ad andare a lavorare, dai, che mi devo vestire. Grazie, certo, caro Frank, già sei caggio, già ci sa di me, sono presidente Manuel, ci sentiamo, grazie a essere entrato. Ehi, ciao Gianmarie, ciao a te, alle prossime. Ciao Manuel, alle prossime, ci risentiamo, ok, perché stasera entri a lavorare. Sì, fino alle 10, alle 6:30 va male. Che lunga erano ultimi, oh, mamma mia. Cosa arriva? Chi su è, chi su fermo? Sì, va bene. Va benissimo così. Purtroppo sì, cazzo. E poi specialmente quello che fa lui, cazzo. Non può stare sempre tra la macchina pure, ogni tanto io sì. Anzi, noi stiamo a fumare, purtroppo appare tranquillo, però vedo un militare che entra dentro luci e si è attrezzato comunque. Infatti, si è attrezzato e bisogna tapparsi per non intendere nulla, sia in capo che in vestimenta. E allora, cazzo, purtroppo, non tutti sono in capo i lavori, cazzo, avvio, con la maniera venne caldo, freddo, ghiaccio, voglia, però bisogna pigliare chi su chi fa. Fate così, Giomai, bisogna pigliare chi su chi fa, e se no andiamo male, andiamo. Certo, è così infatti. Possiamo ringraziare almeno qualche cosa c'è, davvero, almeno qualcosa c'è, non per tutti, però chi ha voglia di lavorare l'ho fatto, perché cazzo, senza soldi, non fa, senza lavoro come fai, di mai, fare così, ma cazzo, a magna, cazzo, non viveva, cazzo, e tante altre cose per cui, senza lavorare cosa fai, non fai niente. Fate così Giovanni, fate così, di più non si può fare, non è così infatti. Infatti, va bene insomma, va bene così, vedo che mi cortezza che ha mai dato, manco tranquillo. È come te, è che basta, ma c'è sì, lo dice a me, anche lui sta bicruttando, ma cazzo, lui c'ha famiglia per cui ci deve andare a fare, poco, ma il bocco si stacca la rocca di Giaghizzo. Fatto è così. Poco e dovemmo farlo. Infatti, purtroppo se non venne altro. Oh, yeah. Tre piedi sotto. C'ho tre piedi. Oh, yeah. Se vieni solo, famiglie numerose, gatte, senza di me, mamma mia, gatte. Vabbè, qualche aiuto già ce l'hanno, però non basta solo quello, eh. Infatti, non bastano, non bastano, infatti è così. Oh, Giulia. Però ho visto, via, dove era prima la questura, pare di chi. Io da sempre la gattata, era viva, beh. Cattolato prima di niente per sempre. Però non ha visto qualcuno che ha bisogno di chissà cosa, cazzo, e vedo la magna che dà pure, capito? E non è giusto, cazzo, a chi ne ha bisogno veramente che è meglio. Infatti, io non ho giusto con me, non ho giusto andando a mangiare nella mensa, non ho giusto con me che non ha bisogno di... eppure nel pasta che c'è un altro nel bicchiere. E non hanno bisogno di travagliarli. Chi ci bisogna eliminarli, so. Quello bisogna eliminarli. E però non è uno solo, quindi solo una gromada. E come si fa a eliminare? Però vorrebbero eliminarci quelle persone. Lascia a chi ne ha veramente bisogno, che è meglio, cazzo. Purtroppo ci sono i magnacci, ci sono tutti. Ma da quanto ho sentito dal primo marzo chiedono l'ISEE a queste persone qua di presentare l'ISEE per poter entrare a mangiare. Ho sentito. Qualche cosa bisogna fare allora, perché ci sono troppe di quelle persone, capito? E mangiano la faccia dura, capito? E senza bisogno di niente, infatti già ce l'hanno in casa. E invece che dicono hanno in nulla, quelli va bene, quelli bisogna aiutarli. Fate così, io comprendo che non hanno bisogno, infatti un paio li hanno già individuati e gli hanno chiesto già l'ISEE dal primo marzo di apportare l'ISEE. Io ho delle persone che conosco lì. Mi hanno detto dal primo marzo deve presentare, e gli hanno già individuato chi sono e non hanno bisogno di andare a mangiare i chivi. Ecco cosa è. E speriamo che riescano a eliminarli come persone. Speriamo che riescano a eliminarli. Va bene, io chiudo. Oh, non mi sento bene, da ieri cazzo mi sento strano. Ho tutto a dolore, tutto. Ma chiudo adesso il mese della glicemia e dopo faccio l'insulina. Ci stiamo domani, se Dio vuole. Ok, grazie a chiacchierata. Ok, Gianmari, ci risentiamo alle prossime. Ok, al più presto te lo porto questo qua. Ok. D'accordo, dottor. Va bene, ciao, ci sentiamo. Ciao, Gianmari. Thank you.